tocca. Cosa ti deve portare? No, è che la batteria della mostra, del fuoco che ho, me la devo piazzare. Ah. Tu non ho portato il mio indirizzo, il telefono. Boh. Se va a sentire. Se va a sentire, chi so. Sta lavorando. Ah! Ma perché dici così? Beh, scusa, se non c'hanno, non ti rispondere, no? Ma se sono andato sulla 27 non c'è mai nessuno. Ma se c'ha ma e ti rispondere. Vabbè. Oh. E a che ora? Può essere anche. Può essere anche qua vicino. Oh. E non hai intesa nessuno. Ma i 27 ho qua. No, qua. Ehi, lascia lì già la gentissima, ma oggi no. Ciao. Dove sei andato? A Vai, vai. Se la si rifate in bagaggio. Io non li dio. Tu sai che non vuoi mettere gli accannocchi, che tu ti rimanchi. Bah. La treccatura. E tu sta aumentando. Ah, non ce l'aumentare mai, di là. Per carità, già. Attento, flippera, ci si? Oh, ma di te sei tutta la lì oggi, eh. Ma è la settra vagliente. Se no se la faccio sentire. È fasi bene, se travagliente poi si attacca da roba vecchino. Eia. E vabbè. Vai, va a pigliare questa cosa, va. Ciao. Sei accesi, no? È tutto accesi, no? Segnale tu Cariello, cap. Tutto a forte. Ti sto arrivando. Che? Tutto a forte. Forte sono. Cap. Sente pure l'elicottero, cambio. Un attimo che sto stavando a cosa, dai. È vero. A te, tuo gufo, dormitaci. No, sveglia sono. Adesso accendo la 27. Il gufo sveglia, e mi siamo andati a dormito. pace della 27 e questo sta caricato. Bella pe! È accesa la 27, siamo in 28. Pressione Gio Maria, cambio. Pressione Graziano, Graziano, cambio. Pressione Graziano, Graziano, cambio. Pressione Graziano. Pressione Graziano, Graziano, cambio. Pressione Graziano, cambio. Hola, attento Graziano. Marina, ci sei. Mi ascolti, Graziano. Sì, che ti ascolto, prova. Se mi ascolti vuol dire che mi senti. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prova. Tu arrivi a bomba. Sì, sì, arrivi bene. Perché ce l'ho sotto carico, l'affitto. Va bene. Ok, ci vediamo dopo. Ciao, grazie, grazie. Ciao, ciao. Vediamo un po', mi ascolti, Marino? Ti ascolto, Luca, buonasera. Tu come ascolti? A bomba. Va benissimo, allora. Adesso tolgo l'antennino, ho messo sul palo dell'antenna. E poi c'è un pezzo di cavetto corto. E stavo provando. Ok, va bene, grazie. Ci sentiamo dopo, ciao, grazie. Ciao, grazie, ho visto che abbiamo fatto il pavimento nuovo giù, E dove? In piazza. Lo stanno facendo, a pizzo a pizzo. Il prossimo mese c'è festa qua, E che festa c'è? E coso di Giovanni Lo Giordo, in memoria di Giovanni Lo Giordo. Ah, è rubato ogni anno, rubati, oh. E me ne vuoi. E chissà se l'hanno finita lo prossimo mese. Comunque hanno detto in piazza Letturi, ma non lo so, da qualche parte la faranno. La faranno sempre lì, dove ti ho finito. La fanno sempre lì. Basta, ti dire bene. Vai, ammazzati. Se avvengo, io avvengo, mandrò gli chiami. Mi stavo risolvendo quel problema là, si è fatto tardi, tra l'altra. Non ho avuto tempo. Sono sceso qua, sei venuta Marina a prendermi. Come si dice? Niente, a preparare il pranzo, faghito, faghidascio. Grazie. Gio Maria. E Ludandu! Beh, fatto hai tu. Stavo... No, oggi non la so non la so la finitura. Infatti, quello che era. Non ho mosso niente, non tanto. Manico, l'hai finito quel... Qualcosa, il soffitto? No, non ho toccato niente perché stavo dando la finitura compressoria a tutti i là. Vabbè. Illu! Allora niente, domani mamma non l'accompagno. Allora mi sa che domani adesso chiamo questo amico e me vado a asparagi. Quanti vasi a te? Illu! Lo può portare in magazzino invece, non dimenticano di fare i video in terra, zac! Ecco, ma c'è pieno di video in terra. Tu li accogli, no? Grazie! Adesso c'è il portatile scarico. Ah, ok. E io sto parlando. Produsa! E lui è due e tre. Vabbè, a dopo, ciao sto scelto. Ciao, ecco cos'era sul Viaggio. Non vuole, no, Fiaggio proprio. Ah, Fiaggio di... di AP50. No? No, Fiaggio di AP50 proprio, di 2700 sì. Ma chi c'ho? Elu! Non c'è, no, quello è Elu. Tore, tu sì che mi scaldi il cuore. Che si è? Anche troppo maduro mi dai sugguri. Illudando. Ciao Luca. Ciao, sto bene, sto uscendo. Sto provando un piccolo apparecchietto. A bomba. Allora mi sposto. A chi no? No, già stai uscendo bene. Radio perfetta. Non è entrato nessuno, Luca. C'era Graziano, ma sta mettendo a caricare il portatilino, io sto provando questo e ti devo lasciare, te lo metto a posto, dai. Sì, ok, va bene così. Ehi, Maria sta entrando subito, Luca devia uscire, Tore ci dovrà essere, Tore Squalo. Perché c'hai questa alternata, Darido? Ah, buonasera signor Bacchisio. Io sono Teatro Scipio. Signor Bacchisio. Venga sulla 27. Attenzione, gigante. Attenzione, Tore, cambio. Marino, mi ascolti? Certo, forse è chiaro, Bacchi, ma ti ascolto benissimo. Mi ascolti bene? Sì, benissimo, proprio neanche un coso di QRM, chiaro, tu? No, sto usando quella lì. Sì, sto usando la tua, con lo stesso che ci avevo, l'ho tolta, dove era prima l'ho messo nell'antenna grande, l'ho testata, praticamente più sopra, e va bene, che se la tua staffa hai fatto 13. E allora fai 13, grazie, già. E allora quando la piattatore, che è ancora più in alto, fa troppo a tutti, ci avanti tu. No, io l'ascolto benissimo, è chiara anche, è limpida la radio. E l'unica cosa adesso mi ho preso il cavo, ho già misurato 23 metri, ce ne vogliono, ma adesso il semaforo, una ventina qua l'ho preso. E va bene, l'ho messo leggermente più in alto della folla, ma più in alto, sta a 20-30 cm dalla direttiva, là, e basta, e va bene. Meglio così, dai. Bene, sono contento che funziona, va. Avanti, sì, quella che mi hai dato tu, sei un documentante, mi sarà bongo, se riesci a pigliare la gola mi sarà bongo in campagna. Sì, a campagna mi avevo un'altra, no? No, Bacchi, per casa mi voto, chissà, quella che ho io mi faccio, quella lì mi faccio. Ah, bisogna vedere quello che so, se lavora a massa. Ma se ne sta gravella, puoi lasciare per mettere la campagna. Oh, scusate, chiudo e attacco là, accendo giù, dai. Ok, mi stai salendo il controllo, va. Andiamo a ridare, ci siamo in 27. Tore, andiamo in 27. Eglia, Tore. Mi dito, Lupo, dormite. No, Luca, sto staccando tutto che adesso faccio il studio e la inceniamo. Dunque, buona cena, domani, ciao! Oh, Luci, sei? Luca, saluto! E che tu? Ma chi gobbo? Ma chi gobbo?